I debiti dell'incredulo e del credente. I debiti costituiscono una delle esperienze più brutte nella vita di una persona. Tanto è vero che alcuni sono ricorsi all'estremo gesto del suicidio. Un debito è come una goccia che incide lentamente la serenità della vita, e il pensiero di aver degli obblighi e non poterli disimpegnare erode, come un tarlo, ogni nostro movimento e pensiero. I debiti finanziari sono certamente tra quelli più sentiti, ma vi sono dei debiti ben peggiori che generalmente e stranamente non sono tenuti in considerazione, mi riferisco a quelli morali. Da un certo punto di vista è comprensibile perché, abituati come siamo a considerare soprattutto ciò che vediamo, le cose che appartengono ai valori spirituali passano in secondo posto, ma evitare di prendere in esame i valori immateriali non è saggio, dato che la nostra trascuratezza non diminuisce né la nostra responsabilità né il loro valore. E, come chiudere le orecchie di fronte ad una persona che invoca disperatamente aiuto o gli occhi per non vedere il nostro prossimo precipitare in un burrone. La nostra responsabilità morale di aiutare e avvertire rimane. Così, la parola di Dio presenta dei debiti che tutti gli uomini hanno. Debiti che variano da persona a persona, ma che comunque devono essere saldati. Vi è il debito di ogni creatura nei confronti del suo creatore, e vi sono i debiti che il credente ha verso la società e nei confronti di coloro che hanno posto fede in Cristo Gesù. Iniziamo a considerare i debiti che ogni creatura ha nei confronti del suo creatore. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili perché, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza si ottene. Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti. Romani 1, 18-22. La scrittura sostiene che ogni uomo è in grado di riconoscere che esiste un creatore, e per questo egli ha il debito di riconoscerlo come Dio e di conseguenza di ringraziarlo. L'ateismo e l'indifferenza verso Dio sono perciò atteggiamenti gravi anche perché il semplice debito di riconoscenza non è stato pagato. Non solo l'uomo naturale non paga il debito di riconoscenza verso Dio come creatore, ma pur di non accettare la rivelazione di Cristo, si è creato una religione secondo i suoi schemi mentali. E questo ha dato adito al proliferare delle religioni. La religione non è altro che lo sforzo dell'uomo di piacere a Dio. Ma senza che egli si renda conto che tutto quello che opera non serve altro se non a aumentare il suo debito nei confronti di Dio. Paolo lo dice espressamente nella lettera ai Romani. Quando considera che la giustificazione, cioè l'essere giusti davanti a Dio, è il risultato di un atto di fede e non di opere, prendendo come esempio Abramo. Che cosa diremo dunque in merito a ciò che il nostro padre Abramo ha ottenuto secondo la carne? Perché se Abramo è stato giustificato per le opere, egli ha di che gloriarsi. Egli invece davanti a Dio non ha nulla di che gloriarsi. Infatti, che dice la Scrittura? Ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia. Ora a colui che opera, la ricompensa non è considerata come grazia, ma come debito. Invece colui che non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è imputata come giustizia. Romani 4, 1-5. Paolo sta facendo un discorso di contabilità. Colui che pone fede in Cristo accredita il suo conto nella colonna dell'avere, mentre a chi opera per ottenere la giustizia, Dio gli accredita il suo conto nella colonna del dare. In definitiva, la persona religiosa che opera per ottenere un favore dal Dio Trino peggiora la sua situazione di debito nei suoi confronti. Un simile messaggio è opportunamente recepito dai religiosi? Chi sostiene di credere in Dio, chi afferma di accettare il messaggio evangelico, chi confessa di credere in Cristo Gesù e alle sue parole, crede fermamente che le sue opere per guadagnare la salvezza non solo non servono a nulla, ma peggiorano la situazione di colpevolezza davanti a Dio? Il messaggio evangelico che a colui che opera la ricompensa non è considerata come grazia, ma come debito, è in grado di cambiare il modo di comportarsi? Questa domanda è valevole per tutti, ma soprattutto per quei cattolici che ancora oggi sono convinti che le loro opere siano valevoli, utili, necessarie per ottenere la salvezza e il perdono dei peccati. Affermare di credere al Vangelo e basarsi sulle opere meritorie è una contraddizione che si pagherà cara alla presenza di Cristo. Un altro debito che grava su tutti gli uomini è verso la società nella quale vivono. In effetti, per riconoscere lo spirito settario di una religione, è sufficiente considerare l'atteggiamento tenuto in merito ai doveri verso la comunità sociale. L'Apostolo Paolo, che ha predicato un messaggio che ha sconvolto la storia del mondo, ha scritto le seguenti parole: «I magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le malvagie. Ora vuoi non temere l'autorità? Fa ciò che è bene e tu riceverai lode da essa, perché il magistrato è ministro di Dio per te nel bene, ma se tu fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano, poiché egli è ministro di Dio, un vendicatore con ira contro colui che fa il male. Perciò è necessario essergli sottomessi, non solo per timore dell'ira, ma anche per ragione di coscienza. Infatti, per questo motivo pagate anche i tributi, perché essi sono ministri di Dio. Dediti continuamente a questo servizio. Prendete dunque a ciascuno ciò che gli è dovuto. Il tributo a chi dovete il tributo, l'imposta a chi dovete l'imposta, il timore a chi dovete il timore, l'onore a chi l'onore. Non abbiate alcun debito con nessuno, se non di amarvi gli uni gli altri. Perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. Romani 13, 3 a 8. Colui che professa una fede in Cristo deve essere il primo a dimostrare di non aver nessun debito di rispetto, di timore, di onore, di sottomissione e nel pagamento delle tasse. Il vero cristiano deve essere il cittadino modello anche se, come al tempo dei Cesari, dovesse subire la persecuzione e la morte. Queste non sono solo parole. Anche oggi, in molte parti del mondo, i cristiani vengono perseguitati e uccisi solo perché colpevoli di avere una reale fede in Cristo. L'Apostolo Paolo ne è un esempio, lui che aveva come esempio Cristo. Ora, fratelli, io non voglio che ignoriate che molte volte mi sono proposto di venire da voi per avere qualche frutto fra voi come ne ho avuto fra le altre genti, ma finora ne sono stato impedito. Io sono debitore ai greci e ai barbari, ai savi e agli ignoranti. Così, quanto a me, sono pronto ad evangelizzare anche voi che siete in Roma. Romani 1, 13-17. Paolo è diventato uno dei missionari più grandi di tutti i tempi, perché aveva sempre presente il debito di portare il Vangelo a tutti. I figli di Dio hanno presente questo debito, i figli di Dio sono coscienti che devono predicare il Vangelo non come un hobby ma come un debito. Hanno capito i figli di Dio che amare il prossimo significa anche portare il Vangelo? La fede cristiana è una fede abbastanza complessa. Professa un solo Dio in tre persone, proclama il concepimento di Gesù per mezzo della persona dello Spirito Santo, sostiene che Gesù Cristo è pienamente uomo e pienamente Dio, presenta un Dio di amore, ma nonostante ciò molte persone andranno alla perdizione per l'eternità. Infine, la fede cristiana insegna che chi pone fede in Cristo, quale Salvatore e Signore, nasce di nuovo, riceve lo Spirito Santo, ha due nature, una naturale e una spirituale. Questa è la grazia di Dio, perché mediante la natura spirituale chi è figlio di Dio può obbedire alla volontà di Cristo. Questo aspetto rende ogni cristiano debitore nei confronti di Dio. Questo aspetto teologico è espresso in poche parole da Paolo nella lettera ai Romani. E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo spirito che abita in voi. Perciò, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morrete. ma se per mezzo dello Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Romani 8:11-14. I più grandi denigratori del cristianesimo non sono gli increduli, ma coloro che professano la fede cristiana e vivono come increduli. Un grande debito che ha il credente in Cristo è quello di vivere condotto dallo Spirito di Dio, perché questo gli è stato dato affinché i suoi istinti sbagliati, perché conformi alla sua natura di peccatore, siano sottomessi alla volontà di Dio. Infine, un altro debito del credente è rivolto verso Israele. È normale per un credente occuparsi dei poveri, ma verso coloro che appartenevano al popolo di Israele vi è una ragione in più, cioè vi è un debito. Ma ora vado a Gerusalemme per sovvenire ai santi, perché a quelli della Macedonia e dell'Acaia è piaciuto di fare contribuzione per i poveri che sono fra i santi in Gerusalemme. Ora è piaciuto loro di far questo, perché sono ad essi debitori. Se i gentili infatti hanno avuto parte dei loro beni spirituali, devono anche sovvenire loro nei beni materiali. Romani 15:25-27. Dobbiamo ricordare che il Salvatore del mondo proviene dai giudei, e ad essi ogni creatura deve sentirsi debitrice. La storia insegna il contrario, ma chi è disposto ad amare tutti i poveri deve ritenere la carità verso Israele non solo una virtù, ma anche un debito, perché se da esso ha ricevuto dei beni spirituali è chiamato a ricompensare con dei beni materiali. Questo atteggiamento deve costituire un principio da applicare ad ogni settore della vita. Chi riceve istruzione nel campo della fede è debitore di soccorrere materialmente il suo maestro. Questi pensieri mettono in evidenza che la vita è cosparsa di debiti da pagare. Debiti verso Dio, verso il prossimo e verso il regno di Cristo. Questa prospettiva rende la vita cristiana piena di obiettivi e di interesse. Perciò, chi trova il cristianesimo noioso e una religione per vecchi, non ha compreso o non vuole comprendere uno dei punti cardini della fede cristiana, il debito. Che tutti noi possiamo avere altro debito che amare Dio e il nostro prossimo. Novembre 2005. Ellero.